America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. François Hollande, nuovo presidente francese, dice: i francesi scegliendo me hanno scelto il cambiamento. Ecco, è un passaggio chiave, perché cosa significa questo messaggio di cambiamento che abbiamo avuto dalle turbulenze elettorali europee per l'America e per Barack Obama? I still believe in you, and I'm asking you to keep believing in me. L'impatto di questi risultati europei non è da poco sulle elezioni e sulla dinamica elettorale americana. Già sabato il presidente Barack Obama ha lanciato formalmente la sua campagna elettorale. Lo ha fatto parlando al Value City Shostine Center di Columbus in Ohio, poi a Richmond, alla Virginia Commonwealth University. Insomma, è andato nei due stati più importanti e ha lanciato formalmente il suo messaggio, il suo slogan, la sua campagna, come vi dicevo. E devo dire che lo spolvero, la passione, il fascino, beh, quelli in Obama ci sono sempre. Il problema è che le cose dal punto di vista economico non stanno funzionando nel modo migliore per lui, e con questo messaggio che abbiamo avuto dall'Europa, un messaggio appunto per il cambiamento, è un messaggio che non ha un colore politico, è un messaggio che chiede semplicemente di cambiare il guidatore. Ai quartieri generali di Barack Obama a Chicago, si sta cercando di rimpostare il contesto strategico. Ovviamente si attende, non si sa bene come andranno a finire le cose. Ci si rende conto che, al di là dell'impatto francese, che potrebbe essere positivo, perché poi la Francia chiede crescita, l'America vuole crescita, e dunque in qualche modo l'elezione di Hollande farà un po' da contrappeso alla politica della Merkel, e dunque potrebbe spostarsi in una direzione favorevole a quello che auspica la Casa Bianca, ma il vero problema potrebbe essere la Grecia. In Grecia c'è gran confusione, non c'è un vincitore chiaro, si dovrà stabilire una coalizione. Il messaggio dell'elettorato è un messaggio duro, non solo contro l'austerità, ma forse anche contro la tenuta degli impegni a ripagare i debiti europei. Se per caso dalla Grecia dovessero emergere dei messaggi negativi, e se per caso dovesse partire un effetto domino che andrà poi a toccare la Spagna, che creerà qualche problema all'Italia, i problemi inevitabilmente ci saranno anche per gli Stati Uniti. Lo abbiamo visto l'anno scorso c'era una situazione, devo dire, meno preoccupante, meno allarmante, meno tesa di quella che abbiamo in questi giorni. Eppure è stato nel maggio dell'anno scorso, proprio in questi giorni, che è partita a Wall Street una correzione che ha finito poi col toccare il -19%, poi gradualmente una ripresa. Ecco, ci si domanda se c'è il rischio che questo scenario possa ripresentarsi. Se lo domandano soprattutto alla Casa Bianca, perché se si andrà avanti di questo passo, soprattutto con un dato sulla disoccupazione americana poco soddisfacente, ricordiamolo, venerdì abbiamo avuto un dato che ha segnato il passo di nuovo sulla formazione di nuovi occupati in America. Ci si aspettava 168.000 nuovi salariati dipendenti, ne sono arrivati soltanto 115.000. E soltanto un paio di mesi fa si pensava che per aprile ci sarebbero stati almeno 200-230.000 occupati in più. Dunque in America c'è già un momento di rallentamento. Se a questo si aggancia anche un'incertezza finanziaria in arrivo dall'Europa, insomma, i problemi per la Casa Bianca non saranno problemi da poco. This is a make or break moment for the middle class, and we've been through too much to turn back now. Ma torniamo a Barack Obama, torniamo a questo suo debutto, all'avvio della campagna elettorale. In questo suo discorso il presidente ha raccontato l'America della classe media, l'America che fatica ad arrivare alla fine del mese, ha ricordato le sperequazioni, ha attaccato Mitt Romney come mai aveva fatto prima e ha definito il campo di battaglia. Obama è contro il big business e contro l'1% 1% più ricco della popolazione che vuole altri tagli fiscali e contro lo scardinamento delle protezioni sociali conquistate dagli americani e a favore di un riequilibrio fiscale, di investimenti in America e per l'America, di un ruolo più forte dello Stato sia per la redistribuzione del reddito che per il controllo degli eccessi attraverso regole chiare e severe. Obama, insomma, vuole perseguire la crescita, certamente si allontana da quel modello di austerità che in qualche modo è stato imposto dalla Germania in Europa e che ha avuto poi le conseguenze che sono sfociate nel voto di ieri. Obama dunque ha confermato di essere pronto a prendersi un rischio, perché di fatto si è messo contro l'establishment, che peraltro non lo ama, e ha cercato il contatto con le masse. Ha scelto due stati chiave, vi dicevo, l'Ohio e la Virginia, che sono swing states, stati con governatori repubblicani, che Obama dovrà vincere se vorrà restare alla Casa Bianca. Come vi dicevo, i problemi ci sono. Obama aveva la voce rauca, ce l'ha messa tutta, ha confermato nel confronto ravvicinato di avere più carisma di Romney. Soprattutto il presidente americano ha dimostrato una volta di più nel confronto con il suo antagonista repubblicano di avere tutta la potenza della presidenza americana e la forza della sua organizzazione elettorale, perché insomma Romney non ha mai parlato davanti a 25.000 persone nello stesso giorno, non può arrivare con Air Force One o con la limousine nera su cui sventola la bandiera americana. Dunque Obama ha delivered, ha consegnato, ma il confronto sarà lo stesso durissimo. Romney non è il pivellino che il presidente americano ci ha descritto, ha i muscoli allenati dopo aver fatto fuori in uno scontro durissimo personaggi del calibro di Rick Perry, Rick Santorum, Newt Gingrich, e al di là della retorica Obama e i suoi questo lo sanno benissimo. David Axelrod, il consulente del presidente, ha detto: dobbiamo definire il nostro messaggio al più presto, per l'estate i giochi dovranno essere fatti, altrimenti sarà troppo tardi, di certo non resteremo indietro. E il suo antagonista in questo weekend si è tenuto indietro, non ha fatto campagna, ha lasciato il campo a Obama, però un suo portavoce ha semplicemente osservato: Barack Obama può dire quello che vuole, ma gli americani sanno che le cose non vanno e che il peggioramento è avvenuto durante la sua presidenza. È quel che sapevano gli elettori europei alle elezioni di domenica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. La voglio dedicare a Adam Yauch, uno dei membri fondatori dei Beastie Boys. Yauch è originario di Brooklyn, qui vicino, al di là del ponte. Purtroppo ci ha lasciato, è morto l'altro giorno a 47 anni. Pensate, dopo aver lottato per anni con un tumore che gli era stato diagnosticato nel 2009. E vorrei proporvi una delle canzoni più celebri dei Beastie Boys: You Gotta Fight for Your Right. Your mom busted in and said, what's that noise? Oh, mom, you're just jealous, it's the Beastie Boys. You gotta fight. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.